Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente ci occuperemo, anche se in maniera ovviamente parziale, dell'incontro, dell'atteso incontro tra il governo e le regioni all'interno della legge di stabilità, come adesso si chiama la legge finanziaria. L'incontro è fissato per le 18 a Palazzo Chigi e non sono mancate, come già abbiamo ricordato ieri, ma anche oggi, alcune tensioni. Se da un lato il ministro dell'economia Piercaro Padoan dice c'è un'esigenza generale di migliorare l'efficienza delle regioni, mi limito, ha detto Padoan, ad osservare che in alcuni casi c'è un'efficienza più elevata e mi sembra che rispetto ad altri casi, mi sembra quasi di buon senso immaginare una convergenza verso le buone pratiche, e questo è indubbio. Abbiamo raccontato in questi anni gli sprechi anche di alcune regioni, e va detto che alcune sono più presenti, ahimè per loro, nella nostra poco invidiabile classifica del venerdì rispetto ad altre. Quindi sarebbe sbagliato fare tutto un erba un fascio. Bisogna capire anche però come avverranno questi tagli e trasferimenti alle regioni, perché se tu tagli, diciamo, in maniera orizzontale, è chiaro che non distingui tra virtuosi e viziosi. Devo dire che invece il governatore delle regioni, da un lato c'è il presidente della regione Lombardia Maroni che dice chiederò a Renzi di modificare la manovra perché così com'è rende tutto più complicato e difficile, questo è oggettivamente sbagliato e iniquo. Zaia, il presidente del Veneto, ha detto non è vero che il governo aumenti i soldi alla sanità, negli ultimi 5 anni abbiamo avuto un taglio di 14 miliardi di euro a fronte di sempre maggiori incombenze. Che si aumenti il fondo di 1 miliardo non è vero, è solo sulla carta. Tutti i governatori di centrodestra e centrosinistra sono incavolati, uso un altro termine, quanto lo sono io. Per quello che riguarda, c'è poi la dichiarazione del ministro Lorenzin, adesso ne parleremo, ma dicevo, per quello che riguarda l'incontro è alle 18. Renzi oggi ha detto basta alla polemica, però basta con le polemiche. Devo dire che l'aveva accesa un po' lui la polemica, il Presidente del Consiglio, dicendo adesso ci divertiamo, aumentiamo i soldi alla sanità, abbiamo messo un bilancio 1 miliardo in più all'anno per la sanità, spendiamoli bene, non voglio far polemiche, non voglio demagogia, la matematica non è un'opinione, i soldi alla sanità aumentano. Lo scorso anno, nel 2014, i soldi per la sanità erano 109 miliardi. Quest'anno sono diventati 110 e il prossimo anno diventeranno 111 miliardi. Poi è normale che le regioni desiderino di più, ma in un bilancio dello Stato noi abbiamo messo 1 miliardo in più all'anno, che ci sembra una bella cifra. E naturalmente, mentre diciamo questo, diciamo anche alle regioni, spendeteli bene. Quando mi si dice che ci sono tagli, allora mi sembra ingiusto e mi arrabbio, perché non è vero, non ci sono tagli. Con questi 111 miliardi, per piacere, cerchiamo tutti di gestirli nel modo migliore possibile. E questo sarà il messaggio che noi daremo anche oggi alle regioni. Non voglio fare polemiche, non voglio demagogia, questo è un momento in cui l'Italia sta ripartendo, le tasse vanno giù, il debito dell'Italia va giù ed è importante per i nostri figli e per i nostri nipoti, però non diciamo neanche bugie. Chi dice che ci sono Italia e la sanità deve fare i conti con i numeri, la matematica non è un'opinione. Parleremo più avanti alle 18, devo dire che appunto ci sono un conto, sono i soldi della sanità, c'è 1 miliardo in più rispetto ai 3 miliardi in più attesi, il miliardo in più è solo uno, in questo senso lo dico non per essere pilatesco, ma hanno ragione sia il Presidente del Consiglio che le regioni, erano attesi 3 miliardi in più nel fondo sanitario, ne arriverà uno solo in più, quindi da un lato ha ragione il Presidente del Consiglio a dire che c'è 1 miliardo in più, dall'altro le regioni dicono arriveranno meno soldi di quanto non abbiate promesso. Poi c'è il tema dei tagli comunque alle regioni, previsti per quasi 4 miliardi nel 2016 fino a 7 miliardi nel 2019. Va detto che il miliardo aggiuntivo però sulla sanità, per quello che a noi risulta, è già destinato a finanziare i livelli essenziali di assistenza e rinnovi contrattuali. Vi arriveremo tra poco, però faccio notare che su questo si concentrano anche i 100 secondi di Radio 24, solo 24 ore, quelli trasmessi anche da Radio Dimensione Suono. La firma di oggi è del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Tra poco Renzi incontrerà le regioni per discutere di uno dei punti più controversi della manovra, ovvero il taglio, che secondo Renzi taglio non è, ai conti delle regioni. Sulla legge di stabilità, in questi giorni di audizioni al Senato, sono arrivati apprezzamenti insieme a tante critiche sulle scelte del governo. La Banca d'Italia ieri ha posto l'accento sulla timidezza con cui la legge di stabilità pone le basi per la riduzione del debito pubblico. La Corte dei Conti ha sollevato dubbi sul fatto che gran parte delle coperture previste dalla manovra siano fatte in deficit e quindi siano provvisorie. Significa che nel 2017 si riproporrà il tema di tagli di spesa che siano strutturali. Ecco, a tutti oggi ha risposto il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, spiegando che è un errore valutare la manovra con un giudizio limitato alle singole misure. Per Padoan è la filosofia della legge di stabilità che va capita. Una legge di stabilità, dice il ministro, che mette al primo posto le riduzioni fiscali per le famiglie e per le imprese, con il chiaro obiettivo di rilanciare i consumi e gli investimenti privati e anche con l'intento di sbloccare gli investimenti pubblici. Tutto bene, naturalmente, ma la domanda è ovvia: basterà tutto questo per la ripresa? Beh, qui sta la scommessa, o forse dovremmo dire anche il rischio, che il governo si è preso. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, sulla integrazione, ma ne parleremo alle 18, c'è un problema di efficienza tra le varie regioni. Ripeto, il tema è capire se i trasferimenti vengono ridotti in maniera orizzontale oppure no. Perché lo dico? Perché il Centro Studi Confcommercio, elaborando i dati Istat per calcolare le inefficienze delle regioni, andando a vedere qual è la spesa pro capite per ogni residente in una regione per i consumi finali, prende come riferimento la Lombardia, che spende 2.651 euro a cittadino, a residente in Lombardia, no? Come costo. Ora scopri che Emilia-Romagna, Friuli spendono tra i 700 e i 1.000 euro in più della Lombardia. Piemonte, Toscana, Marche, Abruzzo, Puglia e Umbria spendono tra i 1.000 e i 1.500 euro in più per ogni residente, perché è chiaro che se prendi il bilancio complessivo devi dividerlo per il numero di residenti in quella regione e quindi hanno un costo più alto. Poi ci sono Liguria, Lazio, Campania, Sardegna, Basilicata con 2.000 euro in più. Molise e Calabria spendono tra i 2.600 e i 3.200 euro in più per ogni residente, e non mi dite che la Calabria e il Molise sono le regioni, diciamo, dove si registra tutta questa efficienza nella macchina regionale. E poi abbiamo le regioni a statuto speciale: la Sicilia spende 2.700 euro in più della Lombardia a testa, cioè il doppio praticamente per ogni residente. Il Trentino 3.700 euro in più, la Val d'Aosta 5.400 euro in più per ogni cittadino rispetto alla Lombardia. La dimostrazione che poi sappiamo che il Trentino, le province di Trento e di Bolzano sono particolarmente efficienti, e in parte anche la Val d'Aosta, però questi sono contributi che vengono versati a livello nazionale, non sono solo basati sui residenti. Però dico, fa specie che non vi sia obiettivamente una corrispondenza tra quello che vediamo nell'efficienza delle regioni e i soldi spesi in più, cioè il fatto che il Veneto, l'Emilia Romagna e il Friuli spendono tra i 655 e i 970 euro, mentre Sicilia 2.700 euro in più, così come la Calabria 3.200, la Sardegna 2.000 euro in più, non si giustifica con il tipo di servizi e gestione dell'amministrazione regionale. Questo diciamocelo. Vabbè, le altre notizie, fermo restando che ci occuperemo anche, visto che parlavamo del sud, del piano per il sud, visto che oggi su Sole 24 Ore erano presenti le linee guida del master plan, come si chiama con questo eccesso di inglesismi, il piano per il sud, dove si legge non sono le risorse che mancano, c'è anche tutto il tema dei fondi regionali di coesione che rischiano di non essere utilizzati, e poi ne parleremo. Per quello che riguarda la borsa, invece segnalo che la borsa è in calo dello 0,60% su Milano, è in rialzo dello 0,30% su Parigi, è in calo dello 0,90% su Francoforte ed è in aumento dello 0,70% su Londra. Ancora tra i titoli, forte oggi Todds più 4%, Prysmian più 2,90%, CNH Industrial più 2,20%, Finmeccanica più 1,70% come Moncler, Ferragamo più 1,40%, Luxottica più 1,1%, Banco Popolare più 1%, Anima Holding meno 4,40%, Telecom Italia meno 3,5%, Fiat Chrysler meno 2,70%, Intesa meno 2%, A2A meno 1,70% come Azimut, Mediobanca meno 1,5%, Tenaris meno 1,20% come il Monte dei Paschi e la Pop Milano e anche Mediaset. Euro in continua discesa, adesso è a quota 1,0864 nei confronti del dollaro. Tra le altre notizie, partiamo come sempre dall'economia internazionale. Per quello che riguarda oggi l'Europa, e nel caso specifico si è tornato a parlare di Grecia, perché l'Eurogruppo, alcune fonti riferiscono che l'Eurogruppo stia chiedendo alla Grecia di accelerare l'attuazione delle misure concordate, è indietro, non siamo ancora preoccupati, ma accelerare è essenziale. Anche la ricapitalizzazione delle banche deve avvenire prima di Natale, visto che a gennaio entrerà in vigore il bail-in, quello che chiama in come responsabilità anche gli azionisti, gli obbligazionisti e i correntisti sopra i 100.000 euro. Dovrebbero intervenire i privati nelle banche nazionalizzate con i bail-in. E poi il commissario europeo degli affari economici e monetari Pierre Moscovici, che era in visita ufficiale ad Atene, rispondendo a una domanda sui possibili margini di flessibilità rispetto ai paesi che stanno affrontando l'impatto più forte sui flussi migratori, ha detto: attenzione, non ci possono essere sconti generalizzati, e nel caso della Grecia, la Grecia deve implementare le riforme sulla base dell'accordo del salvataggio finanziario. Vous pouvez être sûr que la commission n'a qu'une boussole, ce sont les règles. Potete essere certi che la Commissione non ha che una sola bussola, quella delle regole e del patto di stabilità e crescita. Entrambi devono essere applicati e rispettati. Nel caso della Grecia abbiamo anche un'altra bussola, vale a dire la realizzazione del programma di aiuti. Niente deve portare a un allentamento delle riforme. Siamo totalmente a fianco della Grecia nella crisi dei rifugiati, ne ho parlato con Tsipras ieri. Voglio sottolineare il coraggio che ci vuole per accogliere uomini e donne che fuggono da paesi dove la loro vita è in pericolo a causa di regimi sanguinari. Il presidente Juncker ha detto pochi giorni fa che esiste, nel quadro delle regole, la possibilità di appellarsi a circostanze eccezionali. Quindi si valuterà se, sia sul fronte giuridico che finanziario, esistono queste circostanze eccezionali. La Commissione ha detto di essere pronta a esaminare questo aspetto, caso per caso, paese per paese. Ma non si tratta di un cambiamento delle regole. Non è la filosofia della Commissione e non è quello che ci auguriamo di fare. Ora occorre fare il punto sulle spese reali, mostrare le cifre e discutere. Faire état de dépenses réelles, montrer ce que sont les chiffres et ensuite discuter. Veniamo all'Italia, dove al di là dell'incontro Renzi con le regioni, oggi il ministro Padoan, vedo molti messaggi su questo, alcuni mi scrivono: guardi che le regioni in statuto speciale spendono più a cittadino perché molte persone vivono in montagna. Sì e no, nel senso che è verissimo che ci sono delle e ci devono anche essere per il presidio dei territori montani, ci devono essere anche delle agevolazioni per chi abita in quelle zone. Però faccio notare, adesso non vorrei fare un trattato di geografia economica, che anche il Friuli Venezia Giulia mi sembra che abbia qualche montagna, come il Trentino Alto Adige, diciamo, non è solo montagna. Lo dico perché, insomma, col massimo rispetto, e la Sicilia, allora dove la mettiamo, in fronte delle montagne? In Sicilia ci sono, c'è qualcosa, insomma. Però non è pensabile che pro cittadino il Friuli Venezia Giulia spenda 970 euro in più, mentre la Sicilia in più rispetto alla Lombardia, che ne spende 2650, cioè è il benchmark, è il riferimento. Dicevo, 970 euro in più il Friuli Venezia Giulia, la Sicilia 2700, il Trentino 3700 e la Val d'Aosta 5400. Cioè, decidiamo che ci sono più montagne in proporzione in Val d'Aosta, sì, capito, tutto si può dire, ma stiamo parlando di un costo a cittadino che in Val d'Aosta è di sostanzialmente 8.000 euro a cittadino contro i 2.600 della Lombardia, boh, insomma, e contro i 3.400 del Friuli Venezia Giulia, se vi sembra giustificabile. Poi altri mi scrivono: quelle regioni fanno stato sociale, è una forma diversa. Sì, ho capito, ma non si può fare welfare assumendo persone inutili, abbiate pazienza. Si fa welfare dando le garanzie per il welfare, e nel caso specifico l'abbiamo già raccontato, se vi riferite alla Sicilia, non si fa welfare con 24.000 dipendenti regionali forestali su, per poi avere il dissesto idrico che abbiamo. Si fa welfare in altro modo, per esempio abbiamo raccontato due giorni fa dell'assenza delle borse di studio per gli aventi diritto in Sicilia, per cui solo il 30% di chi ne fa richiesta riesce a ottenere una borsa di studio per andare avanti con gli studi. Allora fai così welfare, piuttosto che assumere per motivi elettorali e clientelari 24.000 forestali su. Oppure diciamo che quello è welfare, allora non parliamone più. Andiamo avanti. Dicevo, il ministro Padoan, che oltre alle polemiche con le regioni, cita anche altri elementi di questa manovra finanziaria. Intanto dice che la spending review, però qua Renzi dice che i numeri contano, i numeri parlano chiaro, però qua i numeri ognuno li dà come vuole. Noi avevamo calcolato 5 miliardi di tagli alla spesa pubblica, di cui poco era spending review, perché molti erano anche tagli lineari. Così Padoan dice no, la legge di stabilità contiene complessivamente misure di spending review pari a 7 miliardi 300 milioni nel 2016, 8 miliardi e mezzo nel 2017, 10 miliardi nel 2018, riguardano tutti i livelli di governo e andranno principalmente a tagliare le tasse. La spending review è un processo che continua, non ci sono singhiozzi nella spending review e c'è un utilizzo molto oculato di suggerimenti provenienti dall'attuale amministrazione e da diciamo personaggi istituzionalmente incaricati di effettuare la spending review in passato. Queste analisi sono preziosissime. Un conto è l'analisi tecnica delle voci di spending review, un conto è la decisione politica. Ogni scelta di politica economica, sia essa di tipo tributario, sia essa di tipo di spesa, ha implicazioni evidenti, automatiche, di tipo redistributivo, non possiamo farci a meno, non agiamo nel vuoto. Quindi è chiaro che ci sono valutazioni politiche, ecco perché è importante valutare nel complesso l'insieme delle misure anche da questo punto di vista. La spending continua, ho dato delle cifre, le ripeto, 7.3 miliardi nel 16, 8.4 nel 17, 10.3 nel 18. È naturalmente vero, e ringrazio gli onorevoli che mi hanno richiamato a questa questione, che più si va avanti più i margini di spending si affievoliscono, perché naturalmente non si può andare al di sotto di una soglia minima. E ancora il ministro dice: si può avere un giudizio negativo o positivo di questa legge di stabilità, ma un giudizio, le critiche selettive, cioè che prendono in esame singole misure in modo isolato, aggiungo io estrapolandole, sono giudizi di per sé errati, distorti o quantomeno incompleti. E poi sulla fase della congiuntura economica, Padoan ha aggiunto che la ripresa si rafforza, il debito inverte la rotta dopo 8 anni. Le misure introdotte con la legge di stabilità interagiscono tra di loro e con il contesto in cui sono prese, vanno quindi valutate nel loro insieme. Si rischierebbe un errore di prospettiva se si isolassero singole misure senza tener conto del quadro organico di politica economica. La fase di ripresa dell'economia italiana si sta, come dicevo, progressivamente rafforzando nonostante lo scenario internazionale sia diventato negli ultimi mesi più complesso. Le stime presentate nel documento programmatico di bilancio confermano il quadro macroeconomico delineato nella nota di aggiornamento al DEF, in cui il governo aveva rivisto al rialzo la previsione di crescita del PIL per il 2015 dallo 0,7 allo 0,9%, quello per il 2016 dall'1,4 all'1,6. Allora, mentre chi scrive sulle ragioni, ha sotto speciale sulle ragioni, guardi che non è che siccome in Lombardia ci sono milioni di abitanti rispetto alla Val d'Aosta, è diviso per il numero di abitanti, cioè si prende come benchmark, poi lo ricorderemo, la Lombardia, cioè si divide la spesa della regione per il numero di abitanti e si scopre che la Lombardia, che non è una delle regioni peggio amministrate in Italia, diciamola tutta, anche come servizi, perché adesso non stiamo parlando di altre regioni, spende 2.500 euro a cittadino. Ora, come si giustifica il fatto che la Val d'Aosta ne spenda 8.000 a cittadino solo con gli abitanti in montagna? Beh. E come si giustifica che la Sicilia ne spenda oltre 6.000, quasi 6.000 a cittadino con l'efficienza che vediamo, con la fuga delle matricole universitarie verso il nord, con la fuga ospedaliera verso il nord, con i viadotti, quelli c'entra poco la regione, con l'inefficienza? Come cavolo giustifichiamo questa spesa cittadino? Dovresti avere una Sicilia che è due volte quasi più efficiente nei servizi che dà rispetto alla Lombardia. Allora poi ti svegli tutto sudato perché è un sogno, non è una cosa reale. Oppure cambi pusher, ecco. Allora, vorrei invece occuparmi di crisi aziendali per poi arrivare alla vicenda Volkswagen, perché oggi c'è stato un tonfo alla borsa di Francoforte del titolo Volkswagen, non dovuto alle immatricolazioni, anche se di poco fa la notizia che adesso leggerò sul blocco delle vendite di alcune auto, però un tonfo fortissimo. Volkswagen è arrivato a perdere quasi il 10%, adesso sta chiudendo con un meno 4 se non ho visto male. Però restiamo un attimo ancora sulle crisi aziendali. A chi mi dice del master plan per il sud, vi arriveremo fra un attimo. Secondo quanto pubblico oggi sulle 24 ore, ci sono circa 95 miliardi da qua al 2023 e già 7 miliardi per il 2016. Poi però ricorderò anche i fondi europei che il sud, le regioni del sud non riescono a spendere. Ecco perché prima di criticare il governo dovrebbero chiarire perché non riescono a spendere. Praticamente mancano l'appello sostanzialmente quasi 6 miliardi, sono sì, 7 miliardi, perché su 28 miliardi ne abbiamo usati poco più di 21. Vuol dire che da qua al 31 dicembre dovresti trovare modo di spendere 100 milioni di euro al giorno. Ma vi arriviamo. Due notizie invece. La prima riguarda la Michelin e quindi i 400 lavoratori dello stabilimento Michelin di Fossano in provincia di Cuneo, che hanno bloccato oggi la statale 28. La multinazionale francese, infatti, presentando il nuovo piano di investimenti, ha annunciato la chiusura della sede di Fossano entro il 2016, un piano inaccettabile secondo il segretario generale della UGL Chimici Luigi Ulgiati, al microfono della nostra Livia Zancaner. Il piano industriale presentato ieri a Torino non ci convince, vogliamo fare degli approfondimenti e prima di parlare di licenziamenti vogliamo capire bene che cosa contiene questo piano, quelli che possono essere i riflessi e in che termini soprattutto avrà dei risvolti sul territorio e sui lavoratori. Quali aspetti non vi convincono? Ad esempio la volontà di creare un meccanismo dove l'unica vera soluzione è il ridimensionamento dei lavoratori sia sullo stabilimento di Fossano, sia su Padova, sia su Torino, ma anche nello stabilimento di Cuneo. I lavoratori dicono che non si parla di ricollocamenti, quindi quale potrebbe essere il futuro? Per questo noi non siamo assolutamente d'accordo con questo piano, perché non si può semplicemente dire abbiamo la necessità di ridimensionare, riorganizzare, abbassare i costi e lo facciamo a solo danno dei lavoratori, senza prendere in considerazione altre ipotesi. Avete chiesto un incontro all'azienda? Noi abbiamo già avuto un incontro ieri, avremo altri incontri perché chiaramente questa partita non si risolve con un solo incontro, ma sarà indispensabile predisporre un calendario nel quale poi andranno discusse tutte le questioni e quindi nell'ambito di questo ragionamento, di questi vari incontri, dobbiamo trovare delle soluzioni. E poi l'Alcatel, perché? Perché i sindacati denunciano che a un anno dalla visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi nella nuova sede di Alcatel a Vimercate, in provincia di Monza, arrivano 19 licenziamenti. I sindacati mettono in evidenza la paurosa distanza fra gli annunci spot fatti un anno fa sia da Renzi sia da Alcatel e la drammatica realtà di oggi. Tra i lavoratori espulsi anche tre delegati sindacali, due dei quali iscritti alla FIM-CISL, che annuncia insieme a Fiume Wim un presidio davanti all'azienda per il prossimo 6 novembre. Alcuni di voi mi stanno chiedendo commenti sulla vicenda Vatican Leaks 2. Ora, intanto è uno stato straniero, per cui non andrà mai nella nostra classifica degli sprechi, sebbene da quello che leggiamo vi potrebbe entrare, ma è uno stato straniero e non riguarda i soldi dei contribuenti italiani. Certo, uno poi può fare i ragionamenti che vuole in base a dove dà i suoi soldi, e può fare anche i ragionamenti che vuole, la valutazione che vuole, se è vero quello che sta emergendo per esempio sul lattico di Bertone. Io voglio dire, non mi permetto di dare giudizi su un'altra religione, non ci tengo proprio, sono fatti di Bertone, del Vaticano, dei vertici di quello Stato e dei fedeli che giudicheranno in base al loro libero arbitrio. Però chiaro che il fatto che il cardinale Tarcisio Bertone, il famoso attico che alcuni descrivono in 350 metri quadri, altri in 770 metri quadri, addirittura si è scoperto che i lavori di strutturazione da 200.000 euro sarebbero stati pagati con i soldi della Fondazione Bambin Gesù, che si occupa della cura dei bambini malati. Bertone sostiene di aver pagato i lavori di persona, ma il ricorso alle casse della fondazione è stato confermato anche da Giuseppe Profiti, che era il presidente della struttura fino allo scorso gennaio. Come dire, la valutazione la può fare ognuno di noi, a partire dal fatto che se un cardinale debba avere un attico da 350-700 metri quadri, io non so, avevo altri ricordi della vocazione, diciamo, un po' paperistica della Chiesa Cattolica Italiana, però infatti se sono cambiati non lo so, non mi interessa. Ripeto, e poi sulla destinazione dei soldi, questo può rappresentare un problema per i vari 5-8 per mille se uno fa un ragionamento, ma ripeto, vale per qualunque confessione religiosa, libera chiesa in libero Stato, e poi dentro lo Stato Vaticano ognuno faccia i ragionamenti che vuole. Pubblicità e meteo. Logisticamente, Modul Block, dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta Tempo in diretta. Previsioni a cura di 3B Meteo. Al nord tempo bello, attenzione solo a qualche nebbia che questa notte e domattina potrebbe formarsi in pianura padana. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati potete scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo. State ascoltando un programma offerto da Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Focus Economia. A 7:43 minuti, occupiamoci adesso della Volkswagen. Vedo che alcuni continuano a scrivere sul Vaticano. Non faccia il Doroteo, ma chi fa il Doroteo? Ho detto solo che sono fatti di un altro stato, sull'ICI e l'IMU o IMU ai luoghi di culto, ai luoghi della chiesa, abbiamo già detto, figuratevi, io ero personalmente per non eliminare neanche l'IMU in generale o al massimo una franchigia. Quando sono immobili non di culto va pagata e basta, poi bisogna capire quanto fanno i furbetti da questo punto di vista gli immobili della chiesa. Poi per quello che riguarda, diciamo, il cardinale Bertone, ma decideranno i cattolici se è normale che un cardinale si pigli un appartamento, un attico da 350-700 metri, e se non sia scandaloso, dovesse essere confermato, che usi i soldi per la cura dei bambini malati? Ma bisogna esprimere anche un giudizio su questo? Ma mi sembra talmente pleonastico, no? Dopodiché, per me il cardinale Bertone è uguale a un monaco buddista, a un testimone di Geova, a un rabbino, cioè è esponente di una religione, fine, e in uno stato estero usa i soldi. Dopodiché i cattolici si metteranno a guardare come vengono utilizzati questi soldi, si faccia chiarezza, ma non sono soldi italiani, lasciando stare il fronte IMU, dove la linea è nota. Su. Allora, basta però col cardinale Bertone, perché non possiamo fare la puntata anche su questo. Andrea Malano, occupiamoci di Volkswagen, dai, che è meglio. Nuovo tonfo, meglio si fa per dire, alla borsa di Volkswagen, alla borsa di Francoforte, è arrivata a perdere il 10% Volkswagen, ha chiuso, mi sembra che stia chiudendo meno 3, quindi ha ricondotto le perdite. Qui ci sono due aspetti, ci sono nuove irregolarità, se ho ben capito, nelle emissioni di CO2 di altre 800.000 vetture, questa volta alimentate a benzina e non a diesel. E poco fa mi è arrivata l'agenzia che l'Audi e la Volkswagen fermeranno volontariamente le vendite del SUV Touareg negli Stati Uniti e anche dei modelli A6, A7, A8, Q5, Q7. Andrea, se va avanti così fanno prima a dire quali sono le auto regolari che continuano a dirci quali sono i modelli irregolari, prego. Sì, la vicenda della vicenda che è emersa ieri sera nuova è molto strana e potenzialmente molto grave. Allora, loro hanno detto 800.000 unità, 800.000 veicoli hanno avuto in sede di omologazione, abbiamo dichiarato dei consumi molto più bassi del reale, o molto, insomma, più bassi del reale. È una cosa molto strana, primo perché noi sappiamo, ci sono state varie polemiche nei mesi scorsi, ma anche precedenti, che per come sono fatti i test sui consumi e sulle emissioni, il fatto che le auto che noi compriamo, quando le usiamo, consumino più di quanto venga dichiarato dai costruttori, vale per tutti, non solo per la Volkswagen. Proprio perché i test sono fatti in un certo modo, le auto sono ottimizzate per superarli e quando poi noi le usiamo in città o in giro, consumano di più. Questo ha portato anche ad alcune cause class action da parte dell'associazione dei consumatori, tuttora in corso, eccetera. Quindi il comunicato di ieri sera, che non è stato poi ulteriormente spiegato, faccio una parentesi, comunque la maggior parte di queste auto sono diesel, dovrebbero esserci circa 100.000, ha detto il ministro tedesco, auto benzina su 800.000 coinvolte. Cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente, questa è una mia interpretazione, alla Volkswagen hanno scoperto, tra virgolette, che qualcuno da loro aveva dichiarato in sede di omologazione dei consumi ancora più bassi di quelli che emergerebbero dai test. Credo che possa essere questa l'interpretazione. In ogni caso non sono stati ulteriori dettagli e Volkswagen stessa finora ufficialmente non ha detto quali sono i motori, quali sono i modelli, eccetera. Sono uscite alcune indiscrezioni, dovrebbero essere i motori di media cilindrata e alcuni modelli tra i più diffusi, dalla Polo alla Golf alla Passat all'Audi A3, insomma quelli proprio principali del gruppo tedesco. A questo punto non resta che aspettare, tra l'altro anche dalla Volkswagen Italia non commentano, in attesa evidentemente di lumi e di istruzioni da Wolfsburg. Ovviamente la cosa è molto delicata, qui non si tratta di fare delle riparazioni come nel caso del software dei motori diesel, in cui va ricorretto perché emettano meno ossidi di azoto. Qui si tratta semplicemente, se è vero quello che si è capito, di una truffa, cioè è stato dichiarato che consumava 10 quando in realtà consumava 12. Quindi da un lato ci saranno delle multe da pagare e dall'altro i clienti che hanno comprato un'auto su cui sono fatte delle dichiarazioni non veritiere avranno il diritto a dei risarcimenti, potranno chiederli, ci saranno nuove class action un po' in tutta Europa, senza contare l'ultima cosa, cioè in alcuni paesi come la Germania il bollo auto si paga in proporzione al CO2 emesso, quindi su queste auto si dovrà pagare un rimborso anche allo Stato tedesco, il fisco tedesco ci ha rimesso. Quindi insomma l'affare potenzialmente è per la Volkswagen altrettanto dannoso di quello precedente sui diesel, senza contare che naturalmente il danno sulla reputazione è potenzialmente ancora più grave, tanto più che detto proprio con un'osservazione da bar, se qualche cliente, qualche consumatore può essere indifferente a quanti ossidi di azoto emette la propria vettura, se si rende conto che consuma molto di più di quello che gli hanno detto, si arrabbia secondo me un po' di più. Sì, e questo è un altro aspetto. Devo dire che, questo è vero perché poi noi l'RC8 la paghiamo in un altro modo, ma devo dire che però è sorprendente il calo, che era diventato un crollo oggi a un certo momento del titolo, anche perché proprio ieri, l'altro ieri, raccontavamo, e vorrei un tuo commento su questo dopo il traffico, dei dati misti in Europa, cioè debole la Volkswagen come matricolazioni, la Seat, ma bene l'Audi, e devo dire insignificanti negli Stati Uniti, dove l'Audi è andata bene e la Volkswagen non ha avuto un calo per nulla nelle immatricolazioni, per cui il ragionamento per noi si faceva molto sulle sanzioni e i ricorsi, non tanto sull'andamento delle vendite. Dopo il traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. vi presenta Focus Economia. Allora, vedo che molti mi scrivono dell'8 per 1000. Allora, l'8 per 1000, poi adesso vorrei chiudere con la Volkswagen, poi parleremo dell'8 per 1000, facciamo così, domani facciamo la puntata sui soldi che dà lo Stato italiano allo Stato del Vaticano, facciamo un approfondimento, parliamo dell'8 per 1000, delle responsabilità anche del nostro Stato nel non controllare dove va questo 8 per 1000 favorendo la Chiesa Cattolica, nel non controllare come viene utilizzato, e anche delle convenzioni, dei favori, dei vantaggi, così fermo restando che poi i casi interni al Vaticano se li risolve il Vaticano e noi possiamo commentare solo i soldi che vengono dati, ma il problema dell'8 per 1000 è anche un problema dello Stato italiano che controlla poco, come dice la Corte dei Conti. Vorrei chiudere però con Volkswagen e Audi. Andrea Malan, ancora più strano, dico, visto che tutti i primi dati sulle immatricolazioni non segnalano dei grandi problemi per il gruppo. No, questo in qualche misura era atteso, nel senso che innanzitutto bisogna dire che le immatricolazioni di ottobre sono il risultato di ordini e di acquisti fatti anche in precedenza, quindi sicuramente prima che ci sia l'impatto pieno degli scandali ci vorrà qualche mese. Poi in generale c'è sempre un impatto in questi casi, gli scandali precedenti anche sulla sicurezza che abbiamo citato più volte, dai blocchetti di accensione della GM agli airbag o agli acceleratori della Toyota, insomma ce ne sono stati parecchi negli anni scorsi, poi alla fine sulle vendite l'impatto finale non è esagerato. Sì, alcuni ascoltatori dicono, beh attenzione perché chi l'ha comprata a ottobre l'ha ordinata mesi prima. Esatto, non è sbagliato. Sì. È quello che dicevo prima, poi bisognerà vedere appunto diciamo da qui a qualche mese i tempi, sappiamo quali sono più o meno i tempi perché una macchina venga consegnata. Quindi no, l'impatto effettivamente rischia di essere più finanziario diretto per molte cause eccetera, senza contare però che un conto è l'Europa e un conto sono gli Stati Uniti. Io credo che negli Stati Uniti i tentativi della Volkswagen di affermarsi e di risalire la china come marca siano molto in difficoltà. Tu ricordavi che appunto questo mese Audi è andata bene, Volkswagen è andata così, nel senso che è rimasta piatta, anche lì vale il discorso degli ordini e vale però il fatto che negli Stati Uniti il mercato è cresciuto del 15% a ottobre, quindi fare più zero con un mercato a crescere del 15% vuol dire perdere quota. Sì, poi mi chiedo cosa succederà adesso che fermi le vendite dei SUV Tuareg, dei modelli A6, A7, A8, Q5, hanno Q7. Hanno bloccato tutti i diesel che potrebbero essere oggetto di controversie in attesa di gestire. Io immagino che anche il consumatore poi diceva, io prima di ordinare una macchina che magari rischia di essere bloccata fra 2-3 mesi ci cambio modello. Grazie Andrea Malan, andiamo adesso sulla borsa. Borsa che oggi, per quello che riguarda il mercato, ripeto, ha chiuso in negativo dello 0,60%, Parigi più 0,20%, Francoforte meno 1%, Londra più 0,40%, l'America meno 0,20%, Telecom Italia oggi è un caso, meno 3,72%, anche Anima Holding e Fiat, Anima meno 4,80%, Fiat meno 2,70%, poi c'è Intesa San Paolo che perde il 2,1%, Azimut meno 1,90% come A2A, Tenaris meno 1,40%, bene, Toz più 4%, Prismian più 3,70%, CNH Industrial più 2,30%, Moncler più 1,60% come Finmeccanica, Luxottica più 1,30%, ne parliamo dopo GR24. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio, ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto, lo sapevi? E allora muoviti, muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar, ce l'ha con te questo? Ma no, ce l'ha con te, Alessandro. No, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24. C'è Attenti a Noi Due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino. Due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a Noi Due. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. State ascoltando un programma offerto da... Investi in fondi? Solo con Online SIM scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Focus Economia. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo della borsa, partiamo con Ceo Condia da Telecom Italia, oggi in calo del 3,70%. Buonasera Ceo. Ciao, buonasera a tutti. Su Telecom sicuramente si è un po' sgonfiata la, diciamo, la speculazione che si era accesa negli ultimi giorni, anche e soprattutto perché il francese Xavier Niel ha sostanzialmente chiarito la natura della sua partecipazione, se tale si può chiamare, in Telecom, una partecipazione potenziale che può arrivare fino al 15% del gruppo, ma che in realtà è rappresentata principalmente da alcune opzioni, cioè semplicemente da alcune diritti di acquistare le azioni di Telecom in futuro. Infatti al momento, ha dichiarato Niel, non ha attualmente alcun diritto di voto. Chiaramente tutto ciò, come ho detto, ha contribuito a un po' a smorzare la speculazione che si era accesa sul titolo nelle ultime sedute. Ancora, per quello che riguarda altri titoli, Anima Holding oggi in calo, puntava a comprare Ark SGR, ma mi sembra che sia lontani, meno 4,80% il titolo. Eh sì, perché sarebbe sceso in campo un gruppo americano, Atlas Merchant, che sarebbe pronto a sborsare una cifra importante, superiore probabilmente a quella che si vociferava essere la possibile offerta di Anima, e quindi diciamo Arca SGR, con cui Anima poteva realizzare secondo il mercato delle importanti sinergie, potrebbe sfumare, insomma. Ancora Finmeccanica invece ha diffuso i conti ieri a borsa chiusa. Nei primi 9 mesi l'utile sale a 160 milioni di euro, più 84%. Il titolo, rispetto alla perdita, più 84% è anche l'EBITDA, che è a 600 milioni. Dicevo, utile netto positivo di 160 milioni rispetto a una perdita di 24 milioni nello stesso periodo del 2014, quindi nei primi 9 mesi. Buona appunto la redditività e il risultato netto per quello che riguarda solo il terzo trimestre sale a 59 milioni di euro il titolo. E il titolo è andato bene, sicuramente il confronto con l'anno precedente, veniamo da un anno molto difficile, quindi insomma il mercato ha apprezzato sì i passi in avanti fatti sul conto economico, ma soprattutto anche il fatto che sono stati leggermente rivisti a rialzo gli obiettivi 2015 sulla marginalità operativa. Prima si prevedeva una forchetta da 1,08 a 1,13 miliardi di euro, adesso Finmeccanica si dice sicura di centrare 1,13 miliardi. Sicuramente questo miglioramento in prospettiva ad aver alimentato gli acquisti sul titolo. Ancora tra i titoli andiamo rapidi. Oggi abbiamo visto andare bene anche oltre che Tod's, se vogliamo dare un commento su Tod's, ma anche Prysmian più 3,60%, Tod's più 4%. Ma diciamo che su Prysmian c'è una forte attesa per i conti che verranno diffusi domani. Per quanto riguarda Tod's invece c'è tutto il settore moda che dopo tante sedute in cui è stato penalizzato dai timori sul Far East, oggi ha rialzato la testa, Tod's più 4%, Moncler più 1,6%, Salvatore Ferragamo più 1,1%. Ancora per quello che riguarda i titoli, faccio notare che oltre a Tod's e Prysmian va bene anche Cenac Industrial più 2,30%, tu citavi il lusso moda più 1,66% Moncler, più 1,30% Luxottica e più 1,1% Ferragamo. Va bene Cenac Industrial, non va bene invece Fiat Chrysler, che è il terzo peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, meno 2,70%. Immagino che pesino anche i ragionamenti fatti fino a poco fa con Andrea Malan sul caso Volkswagen. Assolutamente sì, oggi tutto il settore auto è stato molto penalizzato in Europa, lo Stoxx di settore, che è quello che raggruppa tutti i titoli, principali titoli automobilistici europei, ha perso il 2%, su Fiat pesano anche i dati che vengono dal Brasile, a ottobre Fiat avrebbe perso anno su anno, quindi rispetto all'ottobre dell'anno scorso il 51%. Migliori e peggiori in assoluto, tutto Mondo TV France più 7,50, Mondo TV Suisse più 6%, Neurosoft più 5,20, il fronte opposto è Premuda meno 6,80, più 2 meno 6,20 e appunto Anima Holding di cui dicevamo meno 4,80%. Grazie a Ciao Condena, Radio Cori sulle 24 ore. Vedo molti messaggi sull'8 per 1000. Ho anticipato, domani facciamo una puntata sui trasferimenti Stato italiano, Stato del Vaticano, ok? Quindi è su quello uno ha ragione di intervenire. Poi giustamente uno mi chiede: ma Bertone ha pagato l'IMU o la TASI IMU sugli 350/800 metri quadri? Farebbe prima a invitare la stampa lì a farglielo vedere, perché questa è una bella domanda, non lo so. Quello che so è che il prossimo anno non la pagherà sicuramente, se volete la battuta, ed è uno dei motivi per cui a mio avviso l'IMU TASI non andava eliminata, ma soprattutto se uno voleva eliminarla eliminava fino a una certa soglia. Alcuni ascoltatori hanno proposto una franchigia di 500 euro, e la lasciava agli altri, nel senso la eliminava solo sugli immobili di minor pregio, immaginando che l'immobile di minor pregio, catasto permettendo, sia quello dove abitano le persone con minor reddito o proprietà. Ma detto questo, un conto è il giudizio morale che dà una persona laica o una persona cattolica e credente, a maggior ragione, sul cardinal Bertone, e giudizi li possono dare tutti, sia che tu sia credente che non sia credente. Altra cosa è dire che come gestisce i soldi il Vaticano è un fatto nostro, per quello che riguarda i trasferimenti. Ripeto, sull'8 per 1000 ci sono anche delle colpe dello Stato italiano che non va a controllare la destinazione di questi fondi, ne parleremo domani. Dopodiché mi sembra chiaro che il problema sia non sia certo Papa Francesco, che da quello che capisco da osservatore esterno un po' di pulizia sta cercando di farla, e forse sono gli altri che oppongono resistenza. L'altra domanda che mi viene posta è: perché non hai approfittato per segnare a porta vuota con la Germania? Il riferimento a come si sta complicando la vicenda Volkswagen, i modelli coinvolti e quant'altro, perché noi a differenza dei tedeschi con la Grecia non amiamo marmaldeggiare, per cui insomma, mi sembra che la Germania, io continuo a dire, basta notare il silenzio tombale del ministro delle finanze Schäuble, che parlava ogni giorno quando c'era da parlare della Grecia, non ha più parlato. Evidentemente anche la crisi, l'idea della supremazia etico-morale tedesca sta forse venendo meno anche nella mente di Schäuble, immagino, no? Per cui la famosa battuta: c'è chi trucca i conti come la Grecia, c'è chi trucca i motori come la Germania, insomma, evidentemente è arrivata anche a lui, perché sennò non si capisce perché non abbia niente da dire. Allora, dopo il traffico invece parliamo delle nostre regioni, ma non per l'incontro che dovrebbe essere iniziato, non abbiamo ancora agenzie, tra il governo e le regioni, ma per capire come, se da un lato hanno ragione le regioni, soprattutto, anzi esclusivamente quelle virtuose, a dire attenzione ai tagli lineari, ha anche ragione il governo nel dire che qualche risparmio può essere fatto. Oggi su Sole 24 Ore ho trovato un'intera pagina sui diversi costi, diciamo, delle voci di spesa al netto della spesa sanitaria in euro per abitante, e faccio notare che anche in questo caso, comunque tu giri, sia se tu guardi i costi pro capite, sia se guardi i costi al netto della spesa per abitante, vedere che Bolzano, Val d'Aosta e Trento sono in testa, e non sono solo soldi loro, ma che soprattutto c'è anche la Sicilia, la Sardegna e il Molise, te la dice lunga sul fatto che più di un margine di risparmio in alcune regioni sia possibile. Ne parliamo dopo il traffico. Stufe, caldaie, termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Focus Economia. Allora, adesso ho Gianni Trovati per parlare delle spese delle regioni. Devo dare una nota, adesso abbiamo verificato, perché a memoria non mi ricordo, onestamente non mi ricordavo dove fosse l'appartamento del Cardinal Bertone, e che non cambia il giudizio morale che un cattolico, anche un laico, ma soprattutto un cattolico, può dare nei confronti del Cardinal Bertone. L'appartamento del Cardinal Bertone è nello Stato del Vaticano e quindi non paga l'IMU in ogni caso. Non l'avrebbe pagata il prossimo anno anche se fosse stato un immobile di proprietà del Vaticano, ma dentro lo Stato italiano, a maggior ragione se è nello Stato Vaticano, il che, ripeto, non cambia di una virgola il giudizio che ognuno di noi è in grado di dare, se sia giusto o no, a partire dai cattolici, che un cardinale abbia un appartamento del genere. A me sembra che il Papa, che se ricordo male dà la linea alla Chiesa Cattolica e ne è il supremo interprete, stia dando un messaggio leggermente diverso da quello del Cardinal Bertone. Poi voglio dire, no? Ma se la vedranno con Dio, cosa devo dire? Cioè, con cui mi sembra che ci sia un rapporto anche, diciamo, abbastanza intenso, visto che fa il cardinale. Allora, noi invece molto più prosaicamente ce la vediamo con gli uomini, Gianni Trovati, e con gli umani affari, terreni affari, affari, terreni sprechi, verrebbe voglia di dire, perché qua la classifica che oggi hai pubblicato sulle regioni, intanto sentiamo il ministro Lorenzin che dice, guardate che il ministro della salute Beatrice Lorenzin che dice, guardate che le proteste dei presidenti delle regioni che chiedono più fondi per la sanità, il problema delle regioni non è il fondo sanitario, ma come vanno avanti le regioni al netto del fondo sanitario. La spesa 5 anni fa non era 117 miliardi, c'era nel DEF, nel documento di previsione era economica, previsto, sì, era previsto 117, quindi vuol dire 5 che... anni fa era 105 miliardi, da 105 oggi siamo a 111, quindi c'è stato un progressivo aumento della spesa. In realtà dobbiamo fare un calcolo da 3 anni fa, dal 2013, anno in cui abbiamo detto stop ai tagli lineari, perché poi su questo calcolo contorto dobbiamo metterci che dentro ancora ci sono, sì, i tagli di Monti che stanno agendo. Noi abbiamo fatto una cosa che si chiama patto della salute. Nel patto della salute c'è scritto come far rendere sostenibile il sistema sanitario, ammettendo che ci sono degli sprechi e dicendo dobbiamo risparmiare da quella parte e reinvestire. Io ho rimesso nella legge di stabilità di quest'anno la norma, cioè che i soldi risparmiati non vanno alla fiscalità generale, ma rimangono dentro il sistema. Ci sono delle criticità per i prossimi anni. Uno di questi è l'aumento della spesa ospedaliera, cioè i farmaci per gli ospedali sono fuori budget di 2 miliardi. Le regioni hanno un tema, però io non ci voglio mettere la sanità dentro, perché in tutti i tavoli che noi ci siamo fatti quest'anno il problema delle regioni non era il fondo sanitario. Sul fondo sanitario si parlava di 500 milioni di euro in più, parte della quale io spero di poter recuperare durante il dibattito parlamentare. Il tema che era vero è l'extra sanità, cioè come va avanti il sistema regioni al netto del fondo sanitario. E su questo noi stiamo anche lavorando su un decreto per le regioni che dovrebbe arrivare venerdì, però le regioni devono fare tutti un balzo in avanti, ma proprio nel ritmo del lavoro. Noi abbiamo una serie di riforme ferme in conferenza tra regioni da più di un anno. Allora, così il ministro Lorenzin a Corriere Live. Gianni Trovati, tu nella classifica che oggi io prima citavo, la stima fatta dalla Confesercenti o Confcommercio, adesso vado a riprendermi il dato, però tu ne proponi un'altra ed era Confcommercio, il centro studio Confcommercio, su quanto si spende in più rispetto alla Lombardia presa come benchmark pro capite nelle varie regioni, e ripeto, si va dai 2600 euro a testa della Lombardia fino agli 8000 della Val d'Aosta e ai 5000 della Sicilia. Tu invece dividi in due le voci di spesa al netto della sanità, seguendo quello che diceva il ministro Lorenzin. Dici, le due principali voci di spesa sono, al di là della sanità, sono spesa per il personale e spesa per beni e servizi. Ora, la spesa per il personale vede veleggiare regioni come Bolzano, Valle d'Aosta, Trento ai primi posti, 2000 euro Bolzano, 1800 euro la Val d'Aosta, 1300 euro Provincia di Trento, la Sicilia e poi Molise, Friuli Venezia Giulia e quant'altro. Le regioni che noi consideriamo virtuose, penso Emilia Romagna e Veneto, sono virtuose nonostante una bassissima spesa per il personale, che ammonta a 27 euro per il Veneto e 30 euro per l'Emilia Romagna. Cito anche la Puglia, che ne spende 35, la Liguria 36, quindi è dimostrazione che insomma non è che la Sicilia spendendo 190 sia più efficiente del Veneto, che ne spende 27, né, permettetemi di dire, che la Valle d'Aosta o la Provincia di Trento possono giustificare solo sulla base della loro efficienza questi costi per il personale, anche perché spesso sono trasferimenti. Altro fronte invece riguarda la spesa per beni e servizi. Anche qui la Sicilia, oltre che Val d'Aosta, Bolzano, Sardegna, Trento e Campania, sono in testa alla classifica. In fondo alla classifica troviamo Veneto, ma anche Lombardia. Cioè, Lombardia spende 82 euro contro una Sardegna che ne spende 240, una Sicilia 186. Insomma, mi sembra questa la dimostrazione che, al di là della spesa sanitaria, ci siano dei margini importanti di risparmio anche nelle regioni. Non è che forse l'errore del governo è stato nel presentare e di fatto essere questi tagli lineari, cioè io taglio complessivamente questi trasferimenti alle regioni che noi abbiamo quantificato in 4 miliardi l'anno prossimo, 7 miliardi fino ad arrivare a 7 miliardi nel 2019, e le regioni virtuose si arrabbiano. Sì, diciamo che il governo ben sapeva di trovare di fronte a sé delle amministrazioni in grave difficoltà proprio per l'andamento della spesa corrente. Nelle tabelle che abbiamo messo c'è anche la spesa per investimenti, che invece crolla negli ultimi anni e con gravissimi problemi di bilancio. Difficile è separare la sanità dall'extra sanitario. Noi abbiamo preso le voci che tu citavi e che sono della gestione extra sanitaria proprio per sottolineare che il problema non è solo e non è tanto quello del fondo sanitario. Se la Sicilia spende per il personale 10 volte tanto altre grandi regioni, è vero che ha lo statuto speciale ma non ha competenze in più vere rispetto alle altre regioni, vuol dire che c'è una struttura amministrativa completamente fuori controllo e completamente come dire, una struttura dei costi completamente insostenibile. Lo stesso dicasi se la regione Campania spende il doppio, il triplo, il quadruplo di altre regioni nell'acquisto di beni e servizi. Facciamo notare che l'acquisto di beni e servizi è la prima voce di spending review da almeno 4 anni a questa parte. C'è la colpa del governo non aver messo in piedi una spending review seria, perché tu vai con uno strumento efficace nel momento in cui dici: scusatemi, perché i beni e servizi acquistati dalla regione Campania costano mediamente 3-4 volte in più rispetto alle altre regioni? Si disse a suo tempo: troviamo i costi standard per la sanità, ma non solo, la fotocopiatrice a casa mia ha lo stesso peso della siringa o della sacca di plasma o del cerotto e via dicendo, la sedia, l'arredo degli uffici non può costare sempre 3-4 volte in più lì. Poi il governo si presenta a mani vuote perché una vera spending sulla spesa regionale, accorpando anche le voci di spesa, ma che ci vuole a mettere 5-3 stazioni appaltanti per le grandi spese, così vediamo che tutte le fotocopiatrici costino uguali, Gianni. Invece il problema è che le norme sulle stazioni appaltanti hanno provato a centralizzare tutto, anche gli acquisti minimi, quelli da 1000 euro, 1500 euro, facendo di fatto saltare il sistema, perché poi tutto si blocca, certo, se tu devi centralizzare tutto, e di conseguenza hanno prodotto finora solamente delle proroghe. Sono state prorogate già 3-4 volte il famoso passaggio da 32.000 a 35 delle stazioni appaltanti, che era già nei piani Cottarelli. Cottarelli ormai è talmente antico che ce lo siamo dimenticati. La norma è ancora in vacatio, nel senso che di proroga in proroga non è mai partita davvero in vigore. Curiosamente è in vigore da 2 giorni, ma la legge di stabilità ha già detto che cambia tutto, quindi la legge di stabilità parte dal 1 di gennaio. E quindi siamo ancora all'anno zero. Domanda, ma non poteva il governo dire, forse sono io un po' naif in questo caso, scusate, noi dovremmo risparmiare quest'anno 7 miliardi o l'anno 7 miliardi sono a regime, scusatemi, quest'anno i miliardi sono molti meno, parlo di quest'anno come legge finanziaria del 2016, sono 4 miliardi, però siccome sappiamo che ci sono differenze di costi non giustificate, questi 4 miliardi parteciperanno le regioni con diverso peso, cioè quelle virtuose no, e quelle invece che hanno sprechi ingiustificati, sprechi sono sempre giustificati, sì. Sì, gli sprechi sono sempre ingiustificati. La partita è ancora all'inizio, perché nella legge di stabilità c'è scritto una cifra complessiva. Poi si apre la grande partita della divisione: questo lo tagli tu, questo lo taglio io. Fino ad ora queste partite non hanno prodotto altro che tagli lineari, più o meno solo semi lineari, oppure tagli solo preventivi, perché poi a consuntivo si vedeva che la spesa cresceva. Sta al tavoli attuativi trovare A, delle regole chiare, B, dei controlli, perché io posso scrivere la regola più bella del mondo, ma se poi nessuno la applica e a consuntivo si trova che proprio la spesa per beni e servizi è cresciuta ancora, la regola bellissima non è servita. No, perché poi il rischio è veramente quello di portare un aumento della tassazione regionale o una diminuzione dei servizi già bassi, tra l'altro nelle regioni che spendono di più. Ecco perché prima di... Io capisco, non lo dico senza Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, che non sono né assoluto speciale e offrono una buona... Le cito ad esempio, però non posso capire altre regioni, vorrei sentire il silenzio da parte di alcune regioni che abbiamo appena citato. Ho visto adesso Deborah Serracchiani che dice, io non so se parli come presidente della regione Friuli Venezia Giulia o vicepresidente del PD, mi sembra che sia... perché insomma, dice non siamo controparti né avversari ma istituzioni, siamo qui per trovare soluzioni, va bene, però anche le ragioni sotto speciale una mano sulla coscienza se la dovrebbero mettere. Però vi dico una cosa, se non si riesce a fare un taglio mirato alle regioni viziose salvando le regioni virtuose, non ha senso avere il meccanismo della spesa regionale, perché aumenta solo le voci di spesa e non premia chi fa risparmi. Vedremo come andrà l'incontro di stasera. Intanto grazie a Gianni Trovati, parleremo domani del piano per il Sud, oltre che dei soldi che lo Stato italiano dà allo Stato Vaticano e i controlli che fa o non fa lo Stato italiano sull'utilizzo di questi soldi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.